Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Eccoci, siamo tornati. Apriamo le porte di questa casa che non è un albergo. Oggi un sabato particolarmente indaffarato tra addobbi, compere. Allora cerchiamo di rilassarci. Entrate in casa nostra, 824 0024. C'è un divano comodo che vi aspetta e c'è Alberto Pellai che è pronto a fare gli onori di casa. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Tiro anch'io un fiato, proprio un sospiro. Mi rilasso e via che partiamo con questa puntata che sarà ricca di spunti, suggestioni, consigli per i nostri genitori all'ascolto. In regia la parte tecnica c'è Giacomo Spunta, in redazione Luigi Gigi per gli amici Borghi, e noi abbiamo un compito da fare oggi, anzi tanti compiti. Ne avevamo parlato proprio, avevamo lanciato un appello ai nostri ascoltatori alle prese con bambini più o meno cresciuti e quindi costretti a fare i compiti, e devo dire che i nostri ascoltatori come sempre ci hanno dato una mano e si sono messi al lavoro. Alberto. Allora, abbiamo una serie di casi, il medico direbbe i nostri casi clinici, ci sono arrivate molte mail. Abbiamo selezionato tre casi, uno relativo a fare i compiti nella scuola primaria, cioè scuola elementare, uno alla scuola media, uno alla scuola superiore. Non so se riusciremo a fare tutto, poi vediamo cosa ci chiedono gli ascoltatori che ci chiamano. E abbiamo qua una grande esperta, ha appena pubblicato il libro Fate i compiti. Lei è Lucia Rizzi, ma se io vi dico che è meglio conosciuta come Tata Lucia, probabilmente avete già capito di chi stiamo parlando. Buongiorno, benvenuta, bentornata. Buongiorno, il titolo del mio libro si riferisce sì ai bambini, ma soprattutto ai genitori che devono fare i loro compiti. Certo, io vorrei lanciare subito un sondaggio, Alberto. I sondaggi che ti piacciono molto e che attivano l'interesse dei nostri ascoltatori. Vediamo poi soprattutto se la nostra tata è d'accordo. Allora, come dice Tata Lucia, sono i figli che devono fare i compiti, sono i genitori che stanno di fianco ai figli e li devono aiutare nei compiti e nelle lezioni. Cioè, dobbiamo giocarci un ruolo molto attivo, essere molto presenti, oppure lasciar fare e eventualmente verificare alla fine. E c'è un'età dopo la quale i figli devono arrangiarsi e fare tutto da soli? Molte domande, quindi cominciate a scriverci se avete un problema anche voi a casa, e giriamo subito la domanda a Tata Lucia. C'è un ruolo specifico che i genitori devono giocarsi? Devono fare i compiti anche loro oppure no? Dunque, diciamo che c'è un ruolo specifico che è interminabile per tutta la vita del figlio, che è quello di dimostrare nei riguardi dei compiti molto entusiasmo, molta curiosità, in modo che il bambino consideri fare, o il ragazzo consideri la scuola e fare i compiti un privilegio, non un obbligo noioso. E questo... Qua tata ci vorrebbe una magia. Non ci vuole una magia. Ci vuole proprio questo entusiasmo di vita che è tipico del bambino, oltretutto, perché il bambino è un entusiasta, sì, della vita. E il genitore non può coprire questo entusiasmo, non deve, perché se no ne fa un essere che non ha voglia di vivere. Certo. E invece ci deve essere questo entusiasmo. D'altra parte abbiamo anche negli stessi film, eccetera, degli esempi bellissimi di questo entusiasmo. Io ricordo L'albero degli zoccoli, dove questo papà analfabeta prende il suo bambino di 6 anni che torna da scuola e con tanta curiosità gli chiede: cosa hai imparato a scuola? Me la ricordo, era bellissimo. Bellissimo. E il bambino dice: mi ha detto che nell'acqua ci sono degli animaletti piccolissimi. È una cosa affascinante. Allora, anche al giorno d'oggi, un papà può prendere dalla cartella, non chiedere al bambino, perché il bambino spesso non risponde, ma chiedere al bambino, prendere il quaderno e dire: ma guarda che bella A che hai fatto.

è compito dell'insegnante fare questa cosa, perché d'accordo, ci sono genitori che sono in grado di seguire il proprio figlio, ma voi immaginate un genitore che fa il fruttivendolo, il bambino fa i compiti nel retrobottega, cosa riesce a capire di quello che è stato insegnato a scuola? Quindi prima cosa, l'insegnante deve assegnare un compito che il bambino sappia fare in un tempo limitato, perché alle 7:30, a parte che dopo cena dovrebbe andare a letto, questo è il mio il consiglio della tata, esatto, ecco, che vada, non dovrebbe letto, fare i compiti bambini, sì. Non dovrebbe fare i compiti dopo cena, quindi se oltretutto deve farli da solo, il bambino deve essere in grado di farli da solo e in un tempo limitato. Mi sembra che allora il primo consiglio che potremmo segnare sul nostro decalogo che vogliamo compilare oggi è: un genitore non fa i compiti con il bambino fa i compiti e poi eventualmente può tornare dal genitore per una... Sentiamo anche la nostra prof. Prof, da prof e da mamma. Dunque, da mamma ho cercato di abituare la mia seconda piccolina, che quest'anno fa la prima media e quindi ha il naso un po' più incollato al libro, a cavarsela da sola, e ho dovuto anch'io regolare il mio comportamento vincendo quelle reazioni che mi avrebbero portato ad aiutarla, ma soprattutto ho cercato di intervenire sui tempi, che secondo me sono il punto focale. Credere o pensare che il proprio bimbo o il proprio ragazzino o il proprio giovanotto possa, cioè dica ho studiato tutto il giorno, e verificare poi effettivamente quel tutto il giorno, che poi si risolve tutto pomeriggio, metà della sera, effettivamente a che cosa corrisponda, questa è la chiave di lettura del compito, perché ho tanti compiti da fare vuol dire o ne ho veramente tanti o sono lento e uso male il mio tempo, questo, e allora bisogna cercare di capire se c'è concentrazione, se c'è un piano di lavoro, se ci sono molte distrazioni nel corso del pomeriggio. Ecco, su questo può intervenire secondo me un genitore, non negli specifici contenuti o nel sostegno, ti riassumo io il capitoletto così poi per te è più facile, lo capisci meglio, perché effettivamente quello è uno sbaglio a priori, cioè dell'insegnante che magari ha assegnato senza spiegare una cosa da studiare, oppure gli insegnanti, e qui faccio proprio il nostro... no? Un atto d'accusa che riguarda anche me, non siamo capaci di distribuire tra di noi, cioè tra le varie materie, una mole di studio idonea nell'arco della settimana. Sì. Questa secondo me Io è un'altra. Volevo chiedere solo, prima di lasciare la parola a Clelia che ci chiama da Padova e abbiamo poi Alessandro da Torino, alla tata, ad Alberto e alla prof Melo. Può essere utile per un bambino, sia delle elementari, ultimi classi delle elementari e delle medie, quindi organizzargli il lavoro, fargli una sorta di piano di lavoro, dirgli guarda, oggi vedo nel tuo diario che per domani hai, non so, matematica, hai 5 pagine di storia e il disegno geometrico. Allora, dopo pranzo io ti consiglio, possiamo prevedere mezz'ora da destinare a questo, poi ti fai una passeggiatina, un giro, insomma ti prendi una spremuta e fai, ecco, pianificare il lavoro potrebbe essere un'indicazione, e alla sera vedere se questi tempi sono rispettati, in modo che anche il ragazzino si accorga proprio che non sta tutto il giorno sui libri, ma organizzandolo può fare anche altro. Sicuramente pianificare è utilissimo, anche per far in modo che il ragazzino si senta capace di fare le cose, veda effettivamente che raggiunge il suo scopo bene. Ovviamente lo stesso lavoro deve essere fatto in collaborazione con l'insegnante, in modo da pianificare anche nel corso della settimana quello che questi ragazzini devono poter fare. Con molti ragazzini è proprio utile, invece di dare un compito lungo da portare fra 3 giorni, dare dei piccoli compiti tutti i giorni. Clelia ci chiama da Padova. Buongiorno Clelia. Buongiorno. Lei allora, che compiti fa, Clelia? Più che... In che classe è praticamente? Allora, perché noi siamo nella classe dei nostri figli. Esatto. Allora, io ho una bambina sola, che quest'anno fa la prima media. Sì. Ecco, e posso dirvi, per riassumere brevissimamente, che già nella nostra famiglia facciamo molte delle cose che voi avete suggerito, cioè viene fatta la pianificazione dei compiti al pomeriggio, i compiti la mia figlia, anche l'elementare, li faceva da sola, però io ero presente. Sì. E cerco in qualche modo di essere sempre presente, o io o quelle poche volte che riesce anche mio marito. Sì. Senza prevaricare o farle fare i compiti come voglio io, lei li fa a modo suo, però io sono presente. Questo dà molto bene. Le cose che posso aggiungere in più sono queste. Posso dire che alle elementari, per esempio, mia figlia aveva il tempo pieno, sì. Quindi usciva alle 4, 4 e un quarto ed era cotta. Fare subito i compiti era, secondo me, deleterio. Troppo, certo. Perciò ci organizzavamo o con delle camminate, delle passeggiate, comunque. Io mi ricordo che anche sotto la pioggia, non potendo uscire, ci siamo organizzati a saltare alla corda con un cappello in testa. Cioè, voglio dire questo, che il bambino dopo 8 ore di scuola ha bisogno di uno svago fisico in cui, come dire, ricarichi le pile. Questo proprio fisicamente il bambino ha bisogno certo. Di giocare, di svagarsi, possibilmente no con la televisione, perché proprio annulla la fantasia. Magari posso dirle, giochiamo a scacchi. Sofia giochiamo a scacchi oppure giochiamo a carte. Quindi cercare di alternare, questo è un po' il messaggio che ci manda Clelia. Di staccare, possibilmente comunque di muoverci. Grazie. Anche, ripeto, anche in casa con giochi in cui saltiamo imitando le rane. Cioè tutto ciò che permette al fisico di scaricare la tensione. Certo, questo... Dopodiché con la pianificazione si va. E l'unica cosa che volevo aggiungere, l'ultima, la presenza del genitore secondo me è gratificante per il bambino che vede il tempo che il genitore gli dedica del tempo con molto amore. L'ultima cosa, anch'io non faccio mai fare i compiti dopo la cena. Dopo la cena, grazie Clelia. Grazie a voi. Alberto. Sì, ha dato secondo me tanti consigli utili, credo questo aspetto di alternare la fatica della mente con attività fisiche è fondamentale. Mi aveva molto colpito l'esempio del retrobottega che ci dava Tata Lucia. Io credo che una cosa fondamentale per i figli sia avere uno spazio e un tempo definito, che è proprio lo spazio e il tempo dello studio, cioè circoscrivere, costruire un'abitudine, generare tranquillità, dare quello che gli psicologi dicono un setting, cioè una sistemazione, una previsione. Questo è il luogo dove io sono concentrato. Allora aiutiamo Alessandra, professoressa Mello. Mio figlio 8 anni è la nostra Tata Lucia. Mio figlio 8 anni vorrebbe sempre un adulto con lui per provare piacere a fare i compiti, ma noi vorremmo che si autonomizzasse. Che fare? Questo è un po' il problema che torna. 8 anni come a 13, sinora non abbiamo ricevuto messaggi di ragazzi che frequentano il liceo, ma anche lì poi il salto tra le medie e il liceo c'è e i compiti sono davvero duri. Tata Lucia, abbiamo detto pianificare e potrebbe essere. Sì. Però questo bambino che richiede la presenza dell'adulto magari non la richiede proprio per fare il compito che mi auguro che sappia fare da solo a quell'età lì, quanto per aumentare il suo interesse, perché il genitore l'aiuta non solo se è lì e gli dice va bene, devi fare così così, ma l'aiuta se dice ma guarda qui questi fenici che stai studiando, cosa facevano questi fenici? Cioè bisogna dare l'interesse. E quello il genitore lo può dare. Purtroppo la maggior parte dei nostri bambini non ha i genitori a casa. Sì. Allora in quel senso lì andrebbero benissimo i nonni da questo punto di vista, perché il nonno come il bambino è un curioso del libro. Quindi dovremmo far scendere in pista i nonni, i nuovi nonni, molto diversi. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati per fare i compiti, o meglio, per insegnare ai nostri bambini a fare i compiti da soli, per trovare il modo giusto, senza sentirsi schiacciati da questa mole di lavoro. D'altra parte, professoressa Mello, il metodo di studio, ognuno se lo deve trovare, con le buone e con le cattive, in tempo, con un po' di ritardo, professoressa.

Sicché io i miei figli ho insegnato, da siccome io sono casalinga anche, sì, ho insegnato quando ero piccolo, che andavano già alla fine della scuola elementare, io aiutavo i compiti, sì, uscivano di casa, tornavano di casa alle 4:30, sicché io, cioè, aiutavo, davano pochi compiti sì, durante la settimana, però alla fine settimana c'era tantissime da fare, sicché io ero accanto e aiutavo, ho insegnato tutto ed eseguivo fino alle scuole elementari. Una volta che sono arrivati alle scuole medie, ho insegnato che loro si devono responsabilizzare e capire che devono fare i compiti. Non ho mai aspettato dopo alle 8:30, perché un ragazzo che va la mattina a scuola, che torna, certo, che magari certo, alcune volte vanno anche attività sportive, se aspetta una mamma alle 8:30 di sera è finita. È molto difficile, però ora che due più grandi che vanno in scuola superiore, loro si dividono, fino a qualche volta anche arrivano. Però mai e mai è difficilissimo che abbiano dei compiti dopo. Ecco. Ah, quindi il suo consiglio mi sembra, fino alla fine delle elementari le ha seguite. E poi ha detto, piccinini, andate da soli. Certamente. Devono anche crescere i ragazzi, devono responsabilizzare e devono capire che cosa aspetta. Certo. Oppure non diventano mai... Non diventano se no mai grandi. Ecco, non diventano mai grandi. Se aspettano solo... E questo viene l'ansia, la paura... Certo. E alla noia, però se i figli si insegnano quando sono piccoli a aiutare, una volta, insomma, si deve Awa insegnare ai bambini iniziare a camminare da soli. Grazie Awa. Professoressa Melo, diamo qualche consiglio pratico. Dunque, innanzitutto la mia solita tabella orario di marcia. Sì, di questo ne abbiamo parlato e ci sembra una buona idea. Assolutamente, e di raccomandare ai più grandi, diciamo, di tenersi bene, con fedeltà direi, proprio all'orario che si sono imposti, e se capita di non riuscire a mantenerlo, magari programmare degli spazi alla fine della giornata per un recupero. Certo. Però quando io dico ai miei alunni, quanto studi, se tu una volta rispondevi fino a quando io so l'argomento, almeno dalle medie alle superiori, devi dire studio perché questo argomento per un'ora, perché ho capito che io in un'ora posso fare quella cosa, studio quell'argomento in mezz'ora. Ecco, cercare man mano che si cresce di conoscere i propri tempi, sì, ma soprattutto non distrarsi con PlayStation, televisioni, cellulari, perché questi sono veramente purtroppo un po' nemici. Dovreste mettervi una volta e fare un piccolo dopo scuola, la nostra tata, la professoressa Melo. Noi abbiamo da offrirvi tutti i bambini di Alberto Pellai, che fanno già quasi una squadretta di calcetto. Io aggiungo qualcuno dei miei, insomma, e poi li tiriamo su. Quindi la tabella di marcia è fondamentale, sì, ma io voglio dire, se, come capita spesso e lo leggiamo dai nostri messaggi, il bambino, il ragazzino arriva alla fine del pomeriggio e dice: mamma, non ho fatto i compiti, oppure la mamma lo scopre, che cosa si fa? Si manda a scuola senza compiti, oppure il genitore si mette lì vicino seduto e cerca di andare avanti? Alberto, so che questa cosa è capitata anche a te, e allora voglio entrare un po' nella famiglia Pellai per capire che cosa avete fatto. Allora, una delle strategie che noi usiamo è questa, cioè se è successo in modo un po' estemporaneo, non ce l'abbiamo fatta controllare, ci mettiamo d'impegno, a questo punto cerchiamo di recuperare. Ma per esempio, di fronte a un figlio che al sabato, alla domenica, non vuole mai trovare il suo spazio per fare i compiti pur essendo stato sollecitato, il messaggio finale che arriva a metà pomeriggio della domenica è: se i compiti non sono stati fatti e finiti entro le 7, ti assumi tu la tua responsabilità, noi chiudiamo tutto in cartella, domani mattina ti presenti dalla tua maestra e dici: ho deciso che ieri non avevo nessuna intenzione di fare i compiti e di fare le lezioni, e questo è quello che scriveremo sul diario. Questo oggettivamente comporta una trasformazione immediata, perché il bambino sente di non dover dipendere più da "non lo fa per noi", deve assumersi la responsabilità di quello che intende fare. Allora, è arrivato il tempo di chiudere i libri a questo punto. Potete sempre aprire quello di Tata Lucia, fate i compiti, appena uscito Rizzoli Edizione. Quindi, dove trovate davvero dei consigli preziosi per evitare di farli, o per farli bene, per farli insomma, bene, per farli bene. Saluto la professoressa Melo. Professoressa. Arrivederci. Buon compiti, ne dia pochi, ne dia pochi nelle vacanze di Natale, la prego. Guardi, sarò assolutamente fedele a questo impegno. Va bene. Sono contraria al sovraccarico natalizio. Bene, si mette una mano sul cuore, renda felici tanti genitori. Tata, io spero di sentirla, la vedo spesso, certo, di sentirla, di averla qua in studio altrettanto presto, in certo, questa casa che non è un albergo. Alberto? Ti tocca, guarda che io sabato prossimo sono qua. Noi ci siamo, grazie. Buona giornata a tutti da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.